con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, due cance rose, rose come mele. Io gengati tanti ludi, ho gambusciate minia qui se budi, minia qui la spalla scerita. Maria, Maria, nel mio futuro che cosa c'è? Sarebbe bello se fossi un re, così la bionda americana o si innamora o la trasformirana. Io muoio dalla curiosità.